Salvadanaio di Deborah Rosciani. Salve Bex, cosa le è capitato? Questi sono i miei figli, signor Dotto. Lo avevo immaginato, ma perché sono qui? Desiderano aprire un conto corrente. Ah, davvero? E di quanto denaro dispone il giovanotto? 2 penny, però ci voglio dar da mangiare ai piccioni. 2 penny? È la somma con la quale ho cominciato io. Oh, padre, questi sono i figli di Banks. Vogliono aprire un conto corrente. Oh, sul serio, figliolo? Eccellente, eccellente. Fa sempre comodo dell'altro denaro per far lavorare la banca, non è vero? E così tu hai 2 penny? Mi permetti di vederli? No, devo darci da mangiare ai piccioni. Fandonie! Da mangiare ai piccioni e cosa ottieni? Piccioni grassi! E insomma, molti di voi lo avranno riconosciuto, questo brano tratto da un film famosissimo, Mary Poppins. 2 grammi, miseri, semplici penny sono quelli che i piccoli Jane e Michael Banks vorrebbero usare per dar da mangiare ai piccioni, come suggerito dalla tatara Mary Poppins, ma il papà è un banchiere della City e li porta per un giorno sul suo posto di lavoro per presentarli al presidente della banca e spiegare loro come si può investire il denaro aprendo un conto corrente. È un bel tema questo, perché? Perché mentre si consumano le proteste degli indignados di tutto il mondo, da qualche giorno anche di quelli italiani, arrabbiatissimi contro anche il sistema bancario, oggi Salvadanaio torna su un grande cavallo di battaglia del passato, un tema che adesso è, come dire, finito in secondo piano a causa di altre questioni che hanno preso il sopravvento. Parliamo del costo dei conti correnti, perché negli ultimi giorni è stata diffusa una nuova indagine della Banca d'Italia che racconta qualche cambiamento sul filone appunto degli oneri che si devono pagare appunto per aprire un conto corrente con la banca oppure mantenere quello attuale. Vi ricordate, tra l'altro, quando qualche anno fa noi ne parlavamo spessissimo perché c'era la lotta, anzi la vera e propria guerra, fra gli organismi internazionali che continuavano ad additarci come il paese dove gli oneri dei conti correnti erano in assoluto i più alti d'Europa? Ci sono volute battaglie molto sostenute delle associazioni dei consumatori per ridimensionare questa voce molto pesante del bilancio delle famiglie. Il mercato da qualche anno è diventato più flessibile, spostare un conto da una banca ad un'altra è più semplice del passato, forse meno costoso, c'è stato l'avvento positivo dei conti online, ma quanto ai costi, che dobbiamo dire? Per me non è che si siano compiuti poi dei miracoli. Ecco gli ultimi dati. Secondo la Banca d'Italia, la spesa media per la gestione di un conto corrente è diminuita per il secondo anno di seguito, attestandosi a 110,2 euro, 3,4 euro in meno rispetto all'anno prima, anche per effetto di un calo delle operazioni dei clienti. Al netto delle commissioni pagate sugli scoperti e i finanziamenti in conto corrente, che da gennaio peraltro, lo ricordiamo, beneficeranno anche della rimodulazione della ritenuta fiscale, la spesa è di 91 euro, 2 euro e mezzo quasi in meno del 2009. Questa, appunto, vi dicevo, è la nuova fotografia della Banca d'Italia sul costo dei conti, ma noi vi chiediamo come sempre che peripezie avete dovuto fare per risparmiare sul costo del vostro conto corrente o addirittura siete tra quelli che neanche sanno quanto alla fine pagano alla fine dell'anno. Stamattina con noi per ridiscutere di questo tema un'accoppiata vincente, direi, Nicola Borsi, Plus 24 del Sole 24 Ore. Nicola, bentornato. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Anna Vizzari, la dottoressa Anna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo, ben trovata anche lei. Grazie, buongiorno. Allora, chiamateci all'800 24 00 24 per raccontarci un po' la vostra situazione. Siete peraltro tra gli irriducibili del rapporto con la banca, siete lì fissi a quello sportello da anni, non avete alcuna intenzione di cambiarlo nonostante ogni volta che arriva l'estratto conto arriva anche il mal di pancia, oppure avete più volte provato a cambiare in questi anni risparmiando oppure non trovando neanche nessun beneficio dal cambiamento da un istituto ad un altro? Il numero verde ve l'ho ricordato, ci potete anche scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. rapidamente, la borsa oggi tutta in calo dopo i sostenuti rialzi degli ultimi giorni, c'è un calo di 2 punti a Milano, Londra perde 1 punto percentuale, Parigi -1,29, Francoforte -1,42%. La borsa la voglio lasciare subito perché siamo già in ritardo. ritardo. Allora riepiloghiamo un po' nella nostra scheda il tema di oggi e ritorniamo a parlare, da un po' di tempo che trascuriamo questo argomento, di costi dei conti correnti. Quanto costa mettere i soldi in banca? Il tema era molto discusso qualche anno fa, quando l'ABI combatteva a colpi di numeri per smentire le ricerche che davano i servizi bancari italiani come i più elevati fra quelli dei principali stati europei. Una vicenda, questa, che molti non ricorderanno. Non va però dimenticato che anche mantenere un conto corrente ha un prezzo e comporta una voce di uscita nel bilancio familiare, che spesso non viene presa in considerazione. In molti casi, infatti, i costi per le operazioni e per i servizi non si conoscono, oppure si è convinti che siano più o meno tutti uguali, indipendentemente dall'istituto a cui ci si affida. Secondo l'ultima fotografia di Banca d'Italia, in Italia si spendono in media 110 euro all'anno per la gestione di un conto, una cifra in diminuzione rispetto all'anno scorso, anche al netto del calo, che viene comunque registrato, del numero di operazioni effettuate. I conti più convenienti sembrano essere quelli aperti di recente, negli ultimi 2 anni, mentre paga di più in media chi è cliente della sua banca da più di 10 anni, quando offerte e promozioni in questo ambito erano sicuramente più rare. Per risparmiare sulla banca, infatti, non basta diminuire le operazioni allo sportello. Un'attenta scelta del conto migliore per le proprie esigenze resta fondamentale, considerando che il 59% dei costi deriva da spese fisse, il 25% da spese variabili e solo il 17% dalle commissioni sugli utilizzi. Eccoci allora in diretta, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per raccontarci un po' quanto vi costa tenere aperto il conto corrente, che poi tra l'altro non è che sia un'opzione se si può scegliere o meno. Certo, ci sono molte persone che addirittura vivono senza intrattenere a navizzari nessun rapporto con la banca, è una operazione un po' complessa, bisogna avere, come dire, un tenore di vita estremamente semplice per poterlo fare. Purtroppo dalla banca non si può prescindere, qualche volta bisogna arrabbiarsi molto. Mi spiega gentilmente come Banca d'Italia ha effettuato questa indagine, che credo che comunque sia un'operazione consueta che il nostro organismo di vigilanza fa. Sì, è un'indagine periodica, tant'è che anche l'anno scorso erano stati diffusi dei dati proprio su questo argomento. Quest'anno il campione analizzato di conti correnti è molto più esteso, sono più di 11.000 conti correnti analizzati. Cosa ha fatto Banca d'Italia? Ha verificato per dei profili di utilizzo qual è il costo totale di questi conti correnti e quindi ha poi tracciato delle statistiche. Io mi soffermerei sulla cosa che sicuramente emerge più facilmente dall'analisi, che la fedeltà non paga, cioè nel senso che il cliente più fedele è quello che alla fine viene a essere maggiormente colpito dalle commissioni bancarie, quindi ha un costo totale annuo del conto corrente che è sicuramente più elevato rispetto ai correntisti tra virgolette nuovi. Quindi questo cosa ci spinge a dire, come diciamo da sempre, Autoconsumo lo dice da sempre, confrontare le condizioni, non basarsi soltanto sulle condizioni della propria banca, verificare le condizioni di mercato sempre periodicamente, perché appunto si può risparmiare parecchio. Allora, un dato molto interessante, io tra l'altro volevo dare la cifra precisa del campione analizzato dalla Banca d'Italia. La rilevazione per il 2010 ha riguardato 11.114 clienti distribuiti su 636 sportelli di 175 banche, oltre a BancoPosta. La rilevazione precedente aveva considerato invece 8.364 clienti per 563 sportelli e 174 banche. Abbiamo scoperto, Nicola Borsi, che rispetto appunto alla rilevazione precedente i conti quest'anno costano circa in media 2 euro in meno, un gran bel risultato. Ma il risultato sarebbe, come dire, molto interessante se fosse rimasta invariata anche la base di operatività dei clienti. In realtà, al netto del calo dell'operatività, cioè se si va a computare uno stesso numero di operazioni uguale a quello del 2009, il costo sarebbe di 111,1 euro, quindi il guadagno sarebbe leggermente inferiore. Poi ci sono altre cose che vanno sottolineate, secondo me sono piuttosto interessanti. Sappiamo che dal 2010 è entrata in vigore la normativa che prevede la segmentazione della clientela in base alle caratteristiche, alle tipologie, su 6 fasce diverse di clientela tipo. Ecco, se si va a guardare a questo ci si accorge che 7 clienti su 10 pagano il conto una cifra uguale o inferiore a quella prevista dalla tipologia di cliente medio, ma 3 clienti su 10 pagano il conto di più di quello che sarebbe previsto dalla loro tipologia, diciamo, di fascia. Il che significa che ci sono ancora in Italia parecchi milioni di clienti bancari che hanno dei contratti di conto corrente non indicati per la propria tipologia, cioè che utilizzano dei conti correnti che sarebbero più indicati ad altre tipologie di cliente, che quindi forse dovrebbero prendere in considerazione, come diceva prima la dottoressa Vizzari, l'ipotesi di cambiare conto. Tra l'altro, in questi 111 euro di costo medio, Anna Vizzari, indicati dalla Banca d'Italia, ce lo stanno chiedendo alcuni ascoltatori proprio per dare la massima chiarezza, rientra anche l'imposta di bollo che deve essere pagata sul non conto? Non rientra l'imposta di bollo. Perché anche questo è un altro onere, infatti sono 34,20 euro esatto, annuali. Se c'è un deposito titoli, ricordiamo il doppio, esatto. Fino a 50.000, se non ancora di più. No, adesso limitiamoci all'utilizzo al conto corrente. Allora, io naturalmente, come mi aspettavo, sto già notando moltissime telefonate, moltissimi interventi da parte dei nostri ascoltatori, e in molti ci stanno indicando che naturalmente l'unica via verso il risparmio è stata quella di traslocare presso conti online, però anche lì è, come dire, una nicchia, perché oltre in maniera diversa non la possiamo definire, ancora molti pochi clienti di banca appunto si trasferiscono presso la banca online, che viene giudicata ancora con un certo scetticismo, non molti hanno pratica appunto con internet, ma questo lo vediamo costantemente. Detto questo, però, anche passare da uno sportello tradizionale ad un altro può risultare conveniente, Anna Vizzari, non è detto che per risparmiare si debba per forza utilizzare il canale online. No, assolutamente, anche scegliendo il conto corrente più adatto alle proprie caratteristiche, quello più conveniente sul mercato con operatività allo sportello, si può sicuramente risparmiare rispetto al conto che si ha attualmente nel proprio portafoglio. Mi viene da dire anche che molti dei correntisti che sono stati analizzati avranno sicuramente in realtà ancora aperto un conto corrente di tipo ordinario, quindi non un conto a pacchetto, i nuovi conti correnti. Se noi andiamo ad analizzare sui foglietti informativi gli indicatori sintetici di costo di questi conti ordinari, troviamo delle cifre veramente assurde. Volevo segnalarne qualcuno: si arriva a 300 euro di Intesa San Paolo, in media siamo sui 249 euro, BNL fa pagare 238 euro, Monte Paschi 291 euro, Unicredit 297, quindi siamo su cifre veramente molto elevate, moltissimi e molti correntisti ancora hanno dei conti di questo tipo, sono i vecchi correntisti, infatti, che ancora non hanno modificato. E scordiamoci che la banca ci chiami per trasferire la nostra posizione in un'altra più conveniente. Allora, siccome dobbiamo farci un po' diventare consumatori attivi, una raccomandazione che facciamo da anni, ma molti di noi sono pigri, lo dico io in prima persona naturalmente, allora dobbiamo anche insegnare loro magari come fare per cercare di intavolare una trattativa che porti a qualche risultato di risparmio con il direttore di banca, ma magari basta con l'impiegato. Se arriva a un conto corrente che è del tutto inappropriato rispetto alla nostra operatività, allora, come dire, facciamo scattare il campanello d'allarme e andiamo a vedere se si può spostare magari non di banca completamente la nostra posizione, ma anche di conto. E quei due penny in banca subito impiegar, tu li sai, senza troppi sforzi in breve raddoppiar, li vedrai, saranno sicuri nei forzieri. Sì, il tema è indigesto, siccome ci fa venire il mal di pancia il costo del conto corrente, lo abbiamo voluto alleggerire oggi tirando così fuori dal nostro cassetto qualche contributo tratto dalla cinematografia più celebre. Questi erano degli stralci da Mary Poppins e praticamente sono le battute di alcuni dei personaggi nel frangente in cui piccoli protagonisti di questo film, Jane e Michael Banks, vanno ad aprire questo conto corrente con 2 grammi miseri semplici penny. Con noi stamattina per parlare però del costo del conto corrente per le famiglie italiane, non nella cinematografia, Nicola Borsi del Sole 24 Ore Plus 24 e Anna Vizzari di Altro Consumo. Siamo partiti dall'ultima rilevazione della Banca d'Italia, che ci ha raccontato che nell'enorme campione monitorato per quello che riguarda il 2010 il costo dei conti correnti sarebbe in graduale, anche se molto leggera appunto, diminuzione: 111 euro di costo medio rispetto ai 113 del 2009. Però, Nicola Borsi, se andiamo a monitorare I conti correnti bancari aperti da meno di 2 anni, questi risulterebbero estremamente più convenienti. Come mai? Ma sicuramente per una serie di motivi. Innanzitutto per la maggiore diffusione delle tipologie di conto pacchetto e per le tipologie di conto web o anche telefoniche, che consentono una riduzione del costo unitario dell'operazione. In secondo luogo c'è anche da qualche punto di vista l'aumento della competizione degli istituti sul fronte della raccolta, perché dopo la grande crisi dell'autunno del 2008 con il fallimento di Lehman Brothers e l'esplosione del problema della fiducia sul mercato interbancario, per le banche raccogliere diventa una priorità. E specialmente in questo periodo nel quale le tensioni sono tornate a rinfocolarsi. E infatti lo fanno a colpi, per esempio, intanto di apertura di conti correnti di deposito, ma anche conti di deposito che possono avere l'operatività di un conto corrente. Tra l'altro non ho dato la cifra del costo dei conti correnti degli ultimi 2 anni, no, dei conti bancari aperti da meno di 2 anni, in questo caso il costo passa dai 111 euro che dicevo prima a 67,70. Allora cominciamo a sentire alcuni ascoltatori, poi vorrei veramente, se posso, leggere tutti i messaggi che riesco a leggere, perché ce ne sono davvero di molto interessanti. Cominciamo con un'ascoltatrice che è Maria Teresa da Roma. Maria Teresa, buongiorno. Buongiorno. Io trovo assurdo che nell'ambito della stessa banca spostare il mio conto corrente che tengo da 20 anni presso un'agenzia in un'altra agenzia, sempre nella stessa città, mi chiedono di spese di chiusura da un'agenzia e di apertura da un'altra. È la stessa banca, infatti, ma lo possono fare. Ma Maria Teresa, visto che sposta, già perché non si trasferisce direttamente ad un'altra banca con un altro nome? A queste condizioni, sì. Così. Tanto guardi, tra l'altro questa sua vicenda ci rimanda anche ad un'altra considerazione. Per la verità, il ricatto Anna Vizzari del dire guarda che se non mi fai delle condizioni migliori me ne vado da un'altra parte, purtroppo non funziona neanche più. Però comunque questo non è detto che non si possa usare questa. Certo, bisogna sempre provarci, come diciamo sempre, però diciamo che statisticamente è meno probabile, perché comunque anche la possibilità che in agenzia ci sia un potere contrattuale da parte del direttore per diminuire le condizioni non è così possibile, così facile. Ecco. Cosa le suggerisce il caso di Maria Teresa da Roma? È possibile che per una medesima banca nella stessa città spostarsi da una filiale ad un'altra comporti degli oneri di chiusura da una parte e riapertura dall'altra? Allora, su questo aspetto devo dire che ci sono molte banche che fanno questa operazione in realtà del tutto gratuitamente, senza neanche prevedere la chiusura del conto, è semplicemente una modifica delle coordinate bancarie, per cui non si tratterebbe di un'estinzione. Poi ricordiamo che spese di estinzione non si possono applicare, per cui se sono state applicate sono sicuramente illecite, si può chiedere il rimborso. Eredità delle liberalizzazioni Bersani. Esatto, qualcosa è rimasto. Spese di chiusura probabilmente sono legate al fatto che in realtà proprio in questo caso il conto è stato chiuso, cioè non è stato trasferito con una modifica delle coordinate bancarie, ma è stato proprio veramente chiuso, quindi appunto contabilmente ci sono delle spese di chiusura legate al fatto, possono alla essere quelle ragionevoli? Ma dipende moltissimo dalle spese che ci sono già nel conto corrente, però penso una 30 di euro al massimo. E vabbè, abbiamo lasciato la nostra ascoltatrice, se no ci saremmo fatti raccontare anche questo. Patrizio ci scrive: io faccio nomi e cognomi, chi se ne frega. La Deutsche Bank, perché banca? Ottimo, risparmio 106 euro l'anno, ero della vecchia banca, un ottimo cliente, non mi hanno proposto nulla per rimanere, infatti è quello di cui parlavo. Antonio invece ci dice: cambiare banca non è come cambiare panetteria, perché all'inizio ti fanno una promozione, poi però diventano cari come tutti gli altri. Nicola Borsi. Ma anche questo in realtà è un problema, nel senso che la questione dell'informazione contrattuale, precontrattuale e soprattutto della validità nel tempo di questa sta diventando uno dei fronti di battaglia su quale molte associazioni dei consumatori e altro consumo, sicuramente la dottoressa Vizzari lo sa meglio di me, si stanno impegnando in una lotta serrata. Bisogna fare molta attenzione alla lettura di tutta l'informativa per quello che riguarda la validità delle condizioni. Se questa è un problema per i conti correnti, proviamo a immaginarci che significato e che costo possa avere il cambiamento di condizioni che non è stato adeguatamente compreso nel caso di contratti a più lunga durata e sicuramente di maggior onere, come i mutui o addirittura il credito al consumo, dove i tassi di interesse per il denaro che viene erogato dalle banche sono sicuramente molto più pesanti. Posso aggiungere una cosa su questo aspetto? Che comunque se le condizioni sono modificate devono essere comunicate almeno 60 giorni prima, quindi comunque se non arriva la comunicazione non sono valide, ovviamente. Quindi anche se vi arriva un papiro da parte della banca che non avete nessuna voglia di leggere, magari date un'occhiata, perché possono appunto essere state comunicate le variazioni delle condizioni contrattuali, e siccome avete la possibilità di contestarle in qualche maniera se non vi soddisfano, allora è bene appunto che almeno questi nostri diritti li conosciamo. C'è un ascoltatore, Andrea, che ci dice: ma nella rilevazione della Banca d'Italia, immagino che si riferisca a questo, sono state considerate anche banche come Banca Mediolanum? Vabbè, questa è una banca a tutti gli effetti, so che viene ancora identificata come una società che vende polizze, e prodotti di risparmio, però c'è anche la banca, tra l'altro anche loro operatività online completamente, per cui certo che nella rilevazione c'è anche questa. Un altro ascoltatore: io spendo 10 euro circa a trimestre con 40 operazioni, gli interessi non esistono, però mi potete dire dove prenderei di meno? Allora, intanto sul conto corrente normale gli interessi non vengono riconosciuti, Anna Vizzeri. No, nel senso che ci sono, in realtà sono inesistenti, perché sono pari allo 0,010%. Sono i conti, sono gli interessi di Harry Potter, invisibili. Questo è un altro anche un po' un problema, nel senso che se invece chiediamo a prestito il denaro sul conto corrente, quindi andiamo in rosso, i tassi debitori schizzano al 17-18%, quindi sicuramente se li prestiamo noi alla banca, no. C'è una forbice che non è adeguata, però il conto corrente non deve essere ovviamente considerato come uno strumento di investimento, non è un conto di deposito, quindi assai probabilmente non si avranno tassi di interesse. Ci sono stati però soprattutto nell'ultimo anno dei prodotti che avevano dei tassi di interesse particolarmente interessanti per un certo periodo di tempo, per cui magari ci si riferisce a questo, quindi a delle offerte con tassi di interesse allettanti che però ovviamente, ripeto, erano limitati a un periodo di tempo di massimo 6 mesi. Allora, Fabrizio da Torino, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? Dunque, io volevo segnalare il fatto che ho trovato finalmente una banca, però è completamente online, che mi fa pagare semplicemente l'imposta di bollo. Dopo aver cambiato diverse banche, non so se posso fare i nomi, ma insomma, sì, no, avete fatti alcuni. Sì. Quindi Banca Regionale Europea, Banca Nazionale del Lavoro, in questo momento ho il conto esclusivamente online di Banca Sella. Fabrizio, le offerte le conosciamo, sicuramente sono molto vantaggiose. I temi sono due qua. Intanto non tutti hanno la capacità di eporare esclusivamente online. Detto questo, chissà quanto si manterranno queste offerte, Nicola Borzi, perché sì, non è detto che fra qualche mese che, va inquadrato in un ambito più generale, che è quello della situazione del sistema bancario nel suo complesso. Il calo dell'operazione attività dei clienti allo sportello nell'ultimo biennio è molto forte. Secondo me ha superato largamente le previsioni di riduzione di operatività allo sportello fatte dalle banche, e le banche stesse sono preoccupate. In futuro è probabile che i conti online funzioneranno sempre meglio e con dei costi sempre più bassi, per non dire nulli, per tutte le operazioni che vengono ritenute delle commodity, cioè un'operazione uguale all'altra senza valore aggiunto, cioè RID, bonifici, pagamenti vari e quant'altro. Diventerà sempre più dominante invece il tema della consulenza, che sarà il grande sbocco nel quale verranno reimpiegati decine di migliaia di operatori bancari. Questo tema del calo dell'operatività è molto interessante, bisognerebbe esplorarlo a 360 gradi, però mi chiedo, nel momento in cui c'è anche una legislazione che per esempio ti impone di non fare prelievi di contanti molto, molto onerosi, e la banca peraltro per le operazioni di questo tipo allo sportello ti chiede degli oneri molto importanti, non capisco per quale motivo poi magari il sistema bancario di questo si lamenti. Ma è perché signori, siamo in un paese nel quale purtroppo un sesto dell'economia viaggia al di fuori dei canali ufficiali, per non parlare stiamo parlando del nero e dell'economia criminale, di cui molti colleghi del Sole 24 Ore hanno parlato ampiamente e parlano continuamente sia sul quotidiano che sulle loro indagini e nei loro libri. E io continuo a sostenere absit iniuria verbis che è pressoché impossibile che un sesto dell'economia, cioè qualche cosa come 230-240 miliardi di euro, non riescano a essere tracciati e soprattutto che non passino assolutamente nel canale bancario. qualche messaggio, lo leggiamo. Sono amministratore di condominio, amministratore di due piccole SRL, con tre conti online ho azzerato le spese, neanche i bolli, ci racconta Andrea da Roma. Io ho un conto da 15 anni, stessa banca online, negli ultimi 6 anni pago un euro al mese, l'informativa annua, avere un rapporto di, scritto un po' pasticciato però. Allora, il tema è, abbiamo capito tutti quanti che la banca online è estremamente più conveniente, però c'è ancora una larghissima fetta di popolazione, mi riferisco agli anziani, ma neanche tanto, anche magari il microscopico imprenditore che tante operazioni deve fare per forza allo sportello, tante volte questa non è l'alternativa valida al 100% per tutti. Allora, Anna Vizzari, due suggerimenti prima di sentire altri ascoltatori. Se arriva un estratto conto che non ci torna, i conti non ci tornano, riteniamo di pagare troppo, ma abbiamo comunque bisogno ancora di interfacciarci con l'impiegato dello sportello, appunto, per fare un bel po' di operazioni. Come facciamo ad abbassare il costo di questo conto? Prima di tutto andiamo lì e cominciamo a minacciare il direttore che andiamo da un'altra parte. Quando il direttore ci dice va bene, grazie, arrivederci, come allora facciamo a cercare l'offerta migliore sul mercato? Ok, allora sicuramente la normativa sulla trasparenza ci dà una mano, nel senso che negli ultimi anni sicuramente su questo fronte ci sono stati dei cambiamenti molto significativi. Ricordiamo che su tutti i siti internet delle banche sono pubblicati i foglietti informativi aggiornati, quindi questo dà una grande mano per poter avere le informazioni e poterle confrontare, che la Banca d'Italia ha individuato 6 profili di operatività in base ai quali vengono calcolati degli indicatori sintetici di costo. Quindi che direi rappresentano... che la prima cosa da fare magari è capire come individuo e come famiglia quante operazioni e che tipo di operazioni faccio durante l'anno, esatto, e magari direi, con questo specchietto andare in banca. Direi quante operazioni, proprio il numero di operazioni che si fanno, perché su quello che i profili sono stati costruiti, quindi sostanzialmente tra il profilo giovani per esempio e il profilo famiglie con operatività bassa, la differenza è il numero di operazioni, quindi abbiamo in un caso meno di 100 operazioni, nell'altro 112 operazioni, quindi sicuramente è molto importante avere un'idea di che cosa si farà sul conto corrente e tracciare il profilo di utilizzo. Sicuramente questi indicatori sintetici di costo che si trovano sui foglietti informativi possono essere utili per avere un'idea nel confronto di quale sia un conto corrente conveniente, ma per quel profilo, quindi attenzione, perché se poi non si rientra esattamente nel profilo tracciato il costo potrebbe essere anche differente. Che cosa può farci, come dire, cambiare direzione, Nicola Borzi? Allora, noi magari siamo un profilo che fa teoricamente 112 operazioni l'anno, all'interno di queste 112 operazioni che cosa mettiamo? Il pagamento delle bollette per esempio, due prelievi al bancomat, ecco, i prelievi allo sportello, il RID, i bonifici, l'utilizzo di carte di credito. Quindi poi, come dire, se abbiamo in mente quest'anno di comprare casa e magari immaginiamo che nel giro di un paio di mesi il numero dei nostri bonifici esploda, attenzione, perché magari il numero delle operazioni cambia. Bisogna soprattutto fare attenzione all'utilizzo del contante, che è una delle voci sulle quali le banche stanno premendo di più a livello di costi. Bisogna fare attenzione anche al numero degli stati conto che ci si fa inviare, perché, detto brutalmente, ogni stato conto costa. Forse conviene ridurre il numero degli stati conto che ci si fa inviare. Possiamo dire alla banca di non mandarcelo? Sì, si può mettere d'accordo su un numero inferiore. Non è obbligatorio per la banca non può dire almeno è un obbligo. Volta, allora, è obbligatorio almeno una volta l'anno. Una volta l'anno, però esatto. Diciamo che la maggior parte dei conti correnti a disposizione oggi consentono di fare il controllo della situazione del conto anche online. Certo. Quindi ciascuno con i suoi dati può andare sul web e controllare in ogni momento qual è la situazione del conto, ed è uno strumento sicuramente più rapido, più efficace e più sicuro per evitare fenomeni come gli scoperti di cassa, perché c'è una differenza fra il momento in cui un'operazione viene registrata e il momento in cui le somme sono effettivamente disponibili sul conto. Quindi verificare tutte queste condizioni online consente di ridurre. Jacopo D'Alecco, buongiorno, cosa le è successo? Buongiorno, salve, grazie per la possibilità di questo intervento. Io ho appena portato il mio conto, si possono fare nomi di banche? E facciamoli un po'. Allora, da un colosso come Banca Intesa a una banca un po' più piccolina come Credito Valtellinese, che comunque è radicata su tutto il territorio nazionale. Eh sì, ci dicono sempre insomma che con la piccola banca si dialoga un po' meglio, che ci fanno tante condizioni vantaggiose. È successo così? Premesso che io sono un artigiano, quindi ho un conto aziendale, chiamiamo, e conti personali mio e del mio socio in Banca Intesa. Mi sono sposato, quindi chiusura del conto per cointestarlo con la moglie. In questo momento il conto corrente che avevo prima, in cui avevo determinate condizioni, non esiste più. siamo clienti solidi con un piccolo capitale, diciamo, non esiste più il contatto tra la considerazione del cliente. Non è proprio più il momento adesso, Jacopo, infatti. Quindi, detto questo, insomma, lei ha cambiato banca, definitivamente ha lasciato... Esatto, sì, ho trovato condizioni migliori, anche perché non si potevano più spuntare condizioni in Banca Intesa, semplicemente per il cambio di banca, quindi portare determinati liquidità da una banca all'altra, ho spuntato condizioni veramente migliori con bancomat gratuiti e via dicendo, e addirittura l'interesse ancora sul conto corrente indicizzato al tasso europeo della BCE, quindi... Ha fatto il suo lavoro, Jacopo, ha fatto il consumatore attivo e evidentemente per quella banca che ha abbandonato, lei magari riteneva di essere un ottimo cliente, evidentemente dato lo stato attuale che stiamo vivendo, probabilmente per quella banca non era un cliente da trattenere ad ogni costo. Ci sta, l'importante è che abbia trovato appunto una condizione migliore sul mercato. Sentirei rapidamente anche Giovanni da Torino. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno, vi ringrazio intanto di poter dare anche io il mio contributo. Mi dica velocemente, sì. Quello che è la mia esperienza personale. Io per anni sono stato cliente di una delle prime banche italiane. Poi all'incirca un anno fa, per fare più un piacere a un amico, che non perché ne intravedessi l'opportunità, ho cambiato banca corrente. Beh, devo dire che è stato facilissimo, perché hanno trasferito tutto quanto quello che era domiciliato sull'altra banca, sulla banca nuova. Sì, c'è il trasloco facile, sì. Esatto, non ho avuto nessun tipo di impegno, hanno fatto tutto loro e adesso a distanza di un anno non ho praticamente costi sul mio conto corrente, sono molto soddisfatto. Giovanni, quindi il messaggio che voglio lanciare un po' a tutti gli ascoltatori è quello di non lasciare andare le cose per abitudine, ma guardarsi intorno, infatti, e se vedono le possibilità cambiare banca, non è assolutamente faticoso. Grazie Giovanni, grazie mille. E poi magari un po' di fatica la costa anche, però insomma, certo, come per tutte le cose, anche andare a fare la spesa, magari ci divertiamo un po' di più, però dobbiamo prendere, alzarci, andare col carrello, fare tante cose, insomma ci sono tante incombenze che non anche ci piacciono, ma le facciamo. Famiglie, e specialmente per i pensionati, quei 110-120 euro l'anno. Esatto, insomma. Però ecco, hai toccato un tasto importante, Nicola, c'è comunque una fetta di popolazione che magari tutta questa facilità anche nell'esprimere il rapporto col direttore di banca, con l'impiegato, trattare, negoziare, spostarsi, non ce l'ha, non è poi detto che sia così facile per tutti come per i consumatori molto dinamici che abbiamo sentito adesso. Qualche volta la banca un pochino, insomma, sì, dovrebbe anche avere attenzione per queste figure. Questo è vero, diciamo che all'interno del mondo bancario ci sono differenti posizioni, c'è chi è più sensibile nei confronti della clientela, specialmente quella più in difficoltà, e ci sono istituti che ragionano con più con logiche da mass market. E su questo aspetto bisogna anche aggiungere che ci sono spesso dei tempi di chiusura enormi, cioè noi abbiamo visto anche dei casi di persone che hanno impiegato 90 giorni per chiudere un conto corrente. Lavorativi, per cui praticamente 6 esatto, mesi, quindi ecco. Cioè sostanzialmente la seconda volta ci pensano 3 volte prima di cambiare banca, quindi una barriera all'uscita non indifferente. Lo volete sentire il bancario? Certo. Gabriele? Gabriele, buongiorno, rapido perché sto già chiudendo. Salve, purtroppo. Sarò rapidissimo. Grazie. Sarò rapidissimo. Non si è offeso, no, per tutto quello che abbiamo detto stamattina? No, le volevo dire che confermavo, state facendo un'informazione correttissima e anche gli interventi degli ascoltatori sono pertinenti, cioè dicono delle cose vere. E volevo solamente dire questo, che il consumatore deve, cioè il cliente deve venire in banca e deve avere un buon rapporto con l'interlocutore, in questo senso, perché io lavoro in una banca tradizionale, che è quotata, cioè una banca delle più grosse sul territorio nazionale, e tutti i prodotti che avete detto sono anche ad appannaggio di queste banche, perciò se il cliente ha delle difficoltà deve dire la sua esigenza. Se un cliente che vuole il tasso sul conto corrente c'è il prodotto adatto, se uno che vuole il conto a pacchetto c'è il prodotto adatto. Infatti Gabriele. L'altra cosa che volevo solamente dire brevemente è che quella signora che ha elencato le spese di chiusura conto, molte volte mi è capitato nella mia esperienza che qualche cliente ha frainteso, siccome quando viene chiuso il conto e riaperto l'altro non ci sono spese di chiusura, proprio per fortuna per la legge Bersani, molte volte il cliente confonde quei 10 o 20 euro che la vostra ospite ha giustamente elencato, perché vengono calcolati le competenze fino a quel punto e poi si riaccende il nuovo conto corrente, non sono spese di chiusura ma sono spese, diciamo, di costo di conto corrente frazionate per la mensilità. Mamma mia Gabriele, quanto è tecnico adesso, purtroppo avremmo dovuto sentirla all'inizio della trasmissione, noi purtroppo invece Salvadanaio lo dobbiamo chiudere qua, ma ci ritorniamo al più presto su questo argomento. Grazie Nicola Borsi e Anna Vizzari per essere grazie stati con noi, noi ci risentiamo immagino fra qualche secondo per la borsa, a domani.